Ascolta, bene sta funzionando questo microfono, sta uscendo bene. Ok, grazie. Sto passando all'altro. Abbastanza bene, bella amplificata, chiara. Bella, segnale. Buongiorno anche all'altro amico. A Cusie. Andare. Dov'è? Lì è. Il 23, già sono lì. Prova radio, rocca così, prova. Ecco, c'è nessuno sul canale 10? 1, 2, 3, prova 10, c'è nessuno? Sto uscendo, 1, 2, 3, 10, nessuno, 10, per una prova? Sempre il canale 10 per una prova, ora, ora. Bene, papi. Ciao, devo fare una prova. Vieni, ciao famiglia, vieni. Ciao mammi, ascolta, tutta la resta per lì che è sotto controllo, c'è ancora un problemino, ma siccome gli ho girato anche le mutande, di quello al momento non gli faccio, però voglio tenere sotto controllo perché voglio sapere, sto sollevando un po' la radio, guarda, fai capire quella, guarda se è troppo alta. Sì, no, la radio è altissima, dovresti diminuirla parecchio pure. Allora, guarda adesso, mammi, l'ho diminuita parecchio, dimmi se la devo diminuire ancora. Diciamo che la radio sotto c'ha una specie di effetto di quando sei in banda laterale, capito? Ed è forte comunque. Certo, cioè, intendi per... Ecco, abbassate un altro po', come in banda laterale, quindi sta facendo male. Cioè, l'effetto le accese hai quella specie di echo cold sotto, te lo ricordo quella sicuramente hai qualche vento accesa, può essere anche quello lì. Ah no, qui è pieno di vento, c'è tutte le radio accese, vanno, c'ho apparecchi da laboratorio che sto riparando un po' di radio, ce n'è più di una qua, era aperta, e probabilmente è quello. Però quello che mi interessava sapere, voglio regolare un po' il mitigate di questo 430 che di Riccardino, che gli ho fatto di tutto, però c'è ancora un difetto. Per adesso, siccome sto riparando un 440 che mi sta facendo impazzire gli oscillatori, l'ho collegato al posto del mio, della mia radio, perché lo voglio tenere sotto controllo, perché per il resto l'ho tutto messo a posto. C'è un problema, un altro piccolo problema, ma prima voglio vedere se tutto il resto va bene per procedere, capito? Poi lo faremo più avanti. La radio è classica, capito? Quindi c'è il compressore inserito e non è male, capito? Non è male, è buona comunque. Va bene, Vanni, dai, ti ringrazio, la lascio così, lascio per il momento, ma la lascio così, così, tanto così, ultimamente sto un po' ascoltando. Questa radio a parte gli ho girato le mutande, però anche esteticamente io già lo sai che mi arrangio nel restauro, no? E quindi ho trovato di queste Kenwood, il colore originale sono riuscito a farmi fare, e quindi con una tecnica che si usa in carrozzeria per opacizzare dopo con trasparente, parlo di invece di componenti, non con la bomboletta, e quindi riesci anche sui frontalini che sono sempre graffiati, praticamente isolare la parte frontale dove sono iscritte e verniciare la parte, diciamo, quella laterale dove si graffia, dai, quella sotto sopra, e poi quando anche i cofani, tutto, quando puoi togliendate, pulisci, tu non ti rendi conto praticamente, diciamo al 98-99% che è stata riverniciata per il colore, però torna nuova, e quindi questa qua, ne ho due, gli faccio questo lavoro, quando mi entrano queste radio che le metto a posto elettricamente, poi anche esteticamente faccio veloce, smonti tutto, pulisci tutto con Chantecler, i tappini, no, acqua calda, e poi riverniciare i cofani e tornano come nuove. Io ho vecchio un 140 così appena, vabbè, cioè questa vernice consumata appena sciolta. Allora, le frontalina non è male, va bene, è nuovo, dai. Non è eccezionale, ma funziona tutto perfettamente. Questa frontalina è nuovo di Zec, si vede che era, quando l'ha acquistato, diciamo lo stadio finale era, c'era la vetra che era lucidissima, infatti me l'aveva detto questo, che non avevo mai usato in trasmissione. Capita, vabbè, per il resto gli appoggerà tutto. Sì, adesso sto usando il Connex 3000 Silu con 20 coci a corsetta. Il problema è che non riesco a fargli dare, deve essere già qualche finale mezzo andato, perché di solito dai 10 15 watt, questo da 5, 4 addirittura. Però va bene, però 27 ne ho fatto, è così. Quando poi bisogna controllare lo taglio finale, magari non sono nemmeno i finali perché sono in piedi, ecco, magari c'è da regolare qualche corrente probabilmente, quindi può essere quella, con manuale bisognerebbe entrare lì dentro, fare un po' di misurazioni, sicuramente quello non ci crede ai finali bruciati quando tira 5 watt, perché non è il pre-driver non tira così poco, a parte che quando ti si brucia nei finali in genere non esci per niente perché va tutto in corto. Così in linea di massima, secondo me se ti metti a controllare un po' di corrente lì dentro lo fai uscire con i batteri che devi uscire, magari c'è qualche conduccia in perdita, qualche condensatura, non lo so da controllare. Vabbè, infatti anche comunque i finali nuovi, non è un problema, ne ho altri due, quindi provo a sostituirli, può essere anche, però non è una questione di corrente. Perché in banda laterale me li dà tutti, in AM no, la pista mi dà solo 4 fatti. Anche il driver che è in mezzo andato, vabbè comunque non è grave, soltanto è stato un baracchino. Però vedi, se in banda laterale te li dà tutti, vuol dire che i finali non hanno niente. È un problema in AM, può essere, bisogna seguire la catena, così è come andare a catena, magari sta arrivando qualche cosa giusta, qualche tensione, perché noi in banda laterale, se c'è i finali in banda laterale non ti dava tutti i watt, capito? Comunque dai Lanni, proseguo qua, ti ringrazio per il controllo, mi sta facendo impazzire questo 440, ne ho fatto una marea di 440 sugli oscillatori. Ma ne ho girato anche le 80, questo qua, l'altro tutta messa a posto, aveva dei problemi, disprezzi, eccetera. Su questo Ucio 5 mi sta facendo impazzire, ma alla fine se controllare un componente per sostituire, perché c'è uno scherzo di tutto, sostituito proprio per dire, ma è come gli scimi, no, non perché come ti rimacchi che fai la prova, sicuro che niente, non lo so. sgancia, la scheda è quella scheda, lo so già, vabbè, adesso vediamola. E magari la stai spingendo troppo e scatta, capito? No, non la sto spingendo troppo, c'è un... la scheda incasinata. Il problema è che ho trovato condensatori, quando inizia così poi si ritesta, trovo in difetto e poi fa un altro. Adesso vediamo un attimino come va e poi vediamo. Sì, te l'ho detto, quando sono vecchi i componenti, lui ha un perso. No, adesso vedo se trovo lo schema di questo Conex prevedete e poi vediamo. Sì, ho controllato un po' di tensione, dai. Vabbè, io proseguo qua, grazie Vanni. Sì, sì, ciao, sono qua comunque, se ti serve. Divinati, fatti, datti fastidio.